Gopal evara cadore se ne scende nei culure e cammino vicchieriel sotto luna. Quando i voti si è fermata per parlare con crune, non c'è sta mai nessuno che si ferma per sentire. E cammina vicino porto e renna pensa morto, se venesse mo fosse più contenta, tanti parla e nessuno mi sente, guardando mare pensa Maria camo non c'è sta chi. So solo 3 anni e ci penso te sera, passo tempo e non mi paro vero. E cammina, cammina, vicino porta, e chi a niente aspetta morte, sotto luna non parla nessuno. Sotto luna nessuno vuol sentire.